cambio. Alle 10 c'è qualcuno? Chi è? Avanti? Ciao, buonasera. Sì, Claudio, buonasera. Sto già era un giorno. Un po' stanco, Cianto. Non c'è già adesso così mio padre chi c'era. E fa un po' spiego tutto, mi vado fuori di rua, me ne vado a letto. Sono stanco molto, tanto. E tu, tutto bene? Meglio di così. Non si può. Allora, che si dice? Non te l'ho più sentito, ma non te ti stai sempre coricando a una certa ora? No, diciamo che non sto accendendo per niente, tu. Quindi ci sono... all'inizio serata, se sono a casa, ma sto rientrando un bel tardi a lavoro in questi giorni, quindi no, non ci sono neanche nel pomeriggio, capito? Caffa, io mi stavo acceso anche ieri, ho acceso, non c'era nessuno, allora ho detto, ma allora spengo, che devo fare? Non so, io ieri ho fatto due chiacchiere, ma così proprio e poi niente. E poi ho spento, capito? Adesso sono un po' stanco, quanto non ho voglia, ma adesso me dopo mi guardo un po' le TV e sto andando a letto anche presto, capito? Vabbè, farò andare un pochettino. Sono stato contento anche ieri sera, sempre che c'ha parecchio. Adesso lo sento che siete qualcuno, finalmente, dai. Tu, ancora sta facendo giornate dove si può uscire, sabato e la domenica la gente esce, giustamente. Beh dai, appena arriva il tempo brutto già c'è più gente, dai. Facciamo un po' di questo sicuramente. Caffa, già ce n'è bisogno, già farebbe bene. Un po', dai. Perché quando sta troppo tempo zitto, poi fa anche bene. Fare un po' di QSO e farlo andare, dai, la situazione. Perché è un pochettino brutto e non sentirsi nessuno. Sì, vabbè, ti ripeto, è un periodo un po' così. Però già riprendiamo, dai, piano piano. Vedrai che piano piano già si riprende tutto, non c'è problema. Ci sono problemi. Ma che ci fate, no, sono sufficienti, la voglia che bastano. E basta, non scendi, avanzano. Per lui ce ne facciamo noi. No, va bene, ma questo sale anche se non metti 5. Sto così, a 25 watt. E così è a 10 watt. No, va bene. Questo periodo mi sto sbizzarrendo, sto dando biglietti dappertutto, guarda. Adesso questa settimana, se mi capita passo anche lì, con la zona tua. E non è che ti qua sì? Sì che ce l'ho, non mi hanno ancora chiamato, non mi hanno ancora chiamato nessuno, sto aspettando. Adesso ho aumentato il gas, abbiamo aumentato a 1 euro, dai. Ah, addirittura, beh allora, ma già va bene anche a 1 euro, già va bene, sempre più bassa delle altre parti, sempre più bassa delle altre parti, quindi già va bene. Era 27,50, ce l'avevamo, siccome il gas gli ha subito un aumento forte, abbiamo messo il minimo, l'abbiamo messo era 27,50 e l'abbiamo messo a 28,50, abbiamo proprio messo il minimo, mi azzocco, due volte mi hanno aumentato un bel. Io lo so, ha aumentato parecchio il gas. Intanto parecchio sì, invece qui va. Purtroppo Antonio, è così, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, tutto sta aumentando, tutto sta andando a farsi fottere, capito? E allora bisogna adeguarsi, purtroppo, cosa ci vuoi fare? Caffa. Io ce l'ho vista la rissa della televisione che è successa. Non ho capito, la vincita di che cosa? Vincita, la rissa che è successa lì a Roma. Hanno caricato la polizia. Ah, quelli della Alcoa, lo so Antonio. Ma lì succedono queste cose per la disperazione, capito? Perché poi alla fine non è gente cattiva, non è gente... succede perché la disperazione ti porta a fare queste cose. Io spero che non facciano ancora più casino, che si dia una calmata, perché poi dalla ragione purtroppo si passa al torto e quindi poi ci sono le conseguenze penali, come era già successo a quelli della Indipendenza Sardinia, mi pare, una cosa del genere, che erano andati a protestare, mi pare per Porto Torres o qualche cosa, e qualcuno si è preso una bella denuncia, come i pastori sardi, la stessa cosa, capito? E bisogna stare attenti. Ma quella gente è solo disperata e non ha paura neanche di questo, guarda. Non ha paura manco di quello, non gliene frega assolutamente niente. Loro stanno facendo rivalere i loro diritti e basta. Ma porca miseria, cioè è successo questo. Ma perché tu, Stato, per il momento non ti affioppi? Tanto di minaccia a Milano e Maranno che rivenga. E per il momento, quando sta a cercare un imprenditore, non metti un dirigente di quella vita lì. E quando sta per cercare lì un imprenditore, una cosa mandi ancora avanti dall'azienda, appena che ci cerca un imprenditore, un coso, allora prende e gli dai a mano a quello lì. E salvi i lavoratori anche. Ma questa cosa è roba da fare. Lo so tu, lo so, purtroppo è così, però ti ripeto, bisogna andarci con i piedi piombo. perché può essere pericolosa. Una manifestazione fatta così a Roma è sempre un pericolo, perché poi ci hanno sempre loro la ragione, capito? Non è che tu vai lì per manifestare i tuoi problemi e alla fine scoppi perché vedi che nessuno ti dà retta, perché vedi che le cose rimangono come erano e succedono quelle cose che sono successe, e loro, chiaramente, come sono forze dell'ordine, sono più tutelati di te che non sei nessuno, quindi bisogna stare molto molto attenti, cercare di non fare cose brutte, capito? Quindi oggi ho visto anche quelli che sono appesi a Porto Torre, in alto, nella, come si chiama, sopra quel tracciotto alto, proprio a disperazione, cioè, poveracci, che schifo, cioè, adesso hanno detto che ci sono aziende che lavorano per lo Stato, che se non li forniscono i soldi, chiuderanno, abbassano tutto, chiudono proprio, perché gli viene da un po' di denaro. Mi sembra che siano roba di 10 o 15 aziende che devono, se non ce la fanno più, andare avanti. Ma perché, se tu ci hai i soldi, ma perché non gli devi dare? Lo so, tu, se tutti la pensano come te, si potrebbe sanare tante cose, però purtroppo denaro non ce n'è, come vedi la regione sarda è in deficit non so di quanti miliardi, nonostante la crisi continui a tagliarci le gambe a tutti, dico in Sardegna perché tocca a noi, ma se tu guardi il resto dell'Italia, in tutto il resto dell'Italia la Sardegna è quella più penalizzata, nel senso che non arrivano contributi, i finanziamenti sono tutti bloccati per le aziende, i rimborsi per calamità naturale, per tutto quello, sia la pastorizia, sia l'edilizia, sia tutto quello che comprende l'economia e il commercio, non arriva un soldo, li dirottano da altre parti, quindi è tutto un problema, capito? E quindi è chiaro che chi va lì per manifestare i suoi problemi, si vede in quelle condizioni, non neanche calcolato, è chiaro che parte la scintilla e succede quello che sta succedendo. Caffa, però il problema è questo, cazzo, che i tassi che abbiamo pagato, non so, almeno una metà devono rientrare indietro, devono rientrare per poter pagare tutte le cose, se non è rientrato nulla, a pagarci, ma a rientrare per pagare tutte quelle cose che sono da pagare, eccetera, eccetera, ragazzi, cioè, no, non è rientrato nulla, cioè, ma la regione non ha soldi, perché non sono rientrati i soldi che ci dovevano, cazzo, già non credo che siamo in deficit. Se tu e se io dopo e tu non mi ridai, come ti cazzo posso pagare? Lo so, tu, ma i soldi della comunità europea non è che pensano di lottare in Sardegna perché c'è crisi e perché devono ripristinare impianti come la Vinis, il Carbon Sulcis, tutta quindi la parte di via gente, tutto lo sfascio, vedi la zona di Cagliari, quindi l'Alcoa stessa, e se ne fottono le balle, e chiaramente quando da lì non c'è riscontro, per noi è finita, capito? È finita, non c'è più niente da fare, anche la mia società sta aspettando dei finanziamenti dalla regione per poter sanare il bilancio e per poter ripartire con un piano diverso da quello che era prima, e purtroppo ancora è così, e quindi non potendo sanare i debiti vecchi, non potendo ripartire col bilancio a zero, continua a creare problemi, continua ad aumentare i debiti, continua a creare problemi anche al personale che ci lavora, tutto lì, è tutto un giro attorno, purtroppo è così. Ecco, dico solo una cosa, e questo è il problema solo di questo, qua in Italia. Così è tanto. Perché sono dei grandissimi bugiardi, perché i soldi ci sono, e come se ci sono, solo che non vogliono dare niente, non vogliono dare, perché sono qua, sono proprio delle persone che non chiedono, dicono il deficit, il salario è il deficit, ma quando mai lo risani e smetti di dire cazzate, non è così, cazzo. Sono dei bugiardi, insomma, sono veramente dei bugiardi. Lo so, vai. Avanti Becchi, buonasera. Ho ben sentito Claudio, ben sentito Romolo da questa parte Antonio Grotte, ma sto sentendo come una portante, una sovramodulazione strana. La sentite anche voi o è solo da parte mia? Io pensavo tu sentivi a Bombolo, infatti pensavo stavi dicendo a me, no io non sento niente, sono questo baracchino ma non sento niente, sarà qualcuno con qualche portatile sotto casa tua? No, stesso. Sta entrando di splattere qualcuno, capito, va bene, perdonatemi un attimino, posso fare una chiamata? Anche due, altro ci mancherebbe. Va di Roger, attenzione Falchetto siamo ascolti. Tipo, dai. Vi ringrazio, vi chiedo scusa e ci sentiamo alle prossime. Niente, lei tanto mi anch'io adesso stacco. Vado a mangiare un boccone e poi se c'è qualcuno, altrimenti pazienza. Ciao Anto, buon QRX. Ci sentiamo, bombola, vai per Antonio. Ciao, buonasera Antonio. Salutone, ben sentito. Ok Claudio, dai, ce la risentiamo. Tanto ti ringrazio, vai, che vado a mangiare un boccone, ti ho detto che sono entrato tardi anche oggi. E poi mi do una sciacquatina, se c'è qualcuno rientro, lascio accesa qua la radio, baracchino, se c'è qualcuno rientro, altrimenti pazienza. La più cordiale buonasera a tutti, anche quelli che stanno ascoltando. Passo in QRX, tanto ciao. Oh, grazie, la risentiamo. Antonio? Antonio, ci sei? Hola. Ciucucciù. Ciao lei, Cerchini. Ciao, Gianni. Beh, che mi conta? Niente. Spengo la mia su internet, adesso spengo, non c'è più gatto. Vedo su internet adesso. Ma tu usando lo stai? Ma come lo sai? No, la mia era una domanda, non un'affermazione. La mia era una risposta, tu come lo sai? Quindi, sai che lo sto usando, qualcuno te l'ha detto. Ma io ti ho fatto una domanda, ti ho detto. Lo stai usando internet e tu vedi, tu come lo sai? Che cosa? Perché ce l'ho, c'ho le cose, adesso tutto. Ormai me lo sono portato a casa. Io lo so, me l'hai fatto vedere, Ale, ma così vinciate, sì. No, non funzionava prima, non è che te l'ho fatto vedere, adesso funziona. C'ho il tablet anche l'altro, sono collegati assieme. Detto che funzionava, che ti collegavi agli uffici e andavi. Con tablet, non con quello grande. Adesso c'è quello grande qua. Sì, esatto, so che su Facebook, addirittura. Basta che controlli e mi vedi. E come si è messo? Con Alessio Pomponi? Sì. No, Alessio Pomponi no. Antonello. Come le basta? Non sai il nome e cognome mio. Ah, ho capito. E quindi stai chattando. Tu non mi sai niente di chattare. Più che altro lo uso per odirarmi un po' di pezzi. Dato che non c'è niente a Sassari qua. Adesso mano a mano mi ordino i pezzi che mi servono e mi metto di fare gli apparecchi che ho qua, se no devo stare a svantiare di volta, collegarmi a aspettare una settimana con l'ok, ma gli ordino il pezzo, se arrivo adesso se la via in culo. Ma su Facebook pezzi non è trovi gente da parlare e fare link, da. I pezzi li trovi su internet, da. Quello già lo so, sto parlando di Google io. Ah, di Google. Google. KK. Cosa c'è, Google Chrome? Sì, a settimana giù ci sono, se tu fai a parte CB c'è una serie di palati a 65 euro, ma belli veramente, c'è un presidente bello, 65 euro, quanto devo fare la spedizione, figurati. Oh, non ho bisogno di apparati, c'è tutto, non mi manca nulla per il momento, va bene così, tanto paraglietti chi vede, non vedo mai nessuno. Vabbè, allora io mi sono attaccato e sono fatto un giro, ero curioso, la verità, ma una volta che lo uso, quindi sono fatto un giro e non ho visto roba. Ma ti giuro che sono stato qui un bel presidente, e c'è un bel sacco di canali, ne vale anche la pena. È bello grande, sembra un 2009. Bene, su Google, sono andato lì, ho fatto apparati CB, mi ha dato un sacco di apparati, poi c'è subito in pratica solo, però non so la ditta che sia la verità, perché non ci ho fatto, non sono andato a fondo, capito? Non capisco. E vai su eBay, e vai si scrive, e vai con la Y. E vai dindi. Iscrivi e poi vedi tutti gli apparati che ci sono, metti CB e vedi a voi. Ma non è più periodo di comprare. Non è ancora il cazzo insieme, buonanotte. Sì, vabbè, ci ho fatto un giro, ma vabbè, sto entrando in questa cosa, mi lo sai, quindi posso anche sbagliare, sono andato in un sito porno, mi sono guardato un film di gratis. A scrocco, non ho pagato un cazzo, cosa vuoi di più? Pocaccione. Attento che prendi il virus con quei film lì, ti mettono il virus, lo fanno apposta, ti fanno vedere il film e tu sei attratto da quello, vai a aprire e ti mettono il virus. E a me non mi fai vedere del virus, il computer si è buttato la balcona per vecchio, a me non mi fa tutto niente, faccio una gratis io, poco da fare il virus chiama a me. Kappa, ma non ti funziona nulla, se ti mettono il virus poi ti intaccano il computer. Vecchio, ti sto dicendo che è vecchio, non frega niente, il tablet è a posto, a me di questo computer qui vecchio non mi porti nulla. Ogni tanto ci metto antivirus su quello gratis e se la piglia in culo. Quando si blocca. Io ce lo butto. No, basta riformattarlo, dai. Ce lo devi buttare. Cavagava. Sì, vabbè, dai. Interessante che ti faccia avere quello che vuoi. Sì, vabbè, ci avranno quello che voglio. Non ho fatto nulla. A me non ho fatto niente. Più che altro si gioca mia nipote. Ma non ho fatto proprio niente, la verità. E vabbè, cosa ti occorre, c'hai, se vuoi una risposta a qualche cosa, i tuoi perché, vai lì e te la danno, tutte le cose che tu cerchi lì trovi. Se vuoi un assegno me lo danno. Ti dicono come fare a falsificarlo. Allora, non so cosa consigliamo, sai. Non è il primo che clona le carte tramite internet. C'è gente che è ui, mi va di bocca. Addirittura c'era questo camper a Porto Torres se tempo fa. Lo vedevo sempre fermo al porto, e sai, quando passi col furgone, noti sempre quello che c'è, quello che non c'è. E da 3 o 4 giorni vedo questo camper. Poi ho saputo cosa facevano, erano albanesi, praticamente avevano messo la telecamera in un bancomat della banca, una micro telecamera, e loro ci avevano praticamente il monitor dentro questo camper, e da lì clonavano le carte. Ma è meglio così, buon per loro, ma io non le faccio piacere del genere, fai la volta. No, ma era la battuta lì, ragazzi. Il gioco. Dico, questi qui erano missingati. Ma sempre gli albanesi sono specializzati per queste cose. Anche i romeni per questo. Diocesi. Ah, diocesi no. Diocesi, io non so che mangiano le bistecche come me. Ciao. Ah, ora si sono specializzati in Beuzia. Comunque buonasera. Buonasera Antonello, come se c'è dove si basso? Sto usando un altro baracchino, molto basso, basso, basso, basso. No, no, basso, basso, basso, ma diciamo non sei come al solito di radio. Ah vabbè, il segnale nella radio bene va. È normale, va. Perfetto, comunque buonasera, sto usando lo Zodiac Z30. Ah, un attimo di naso comparato. Apro di mio fratello. Ah, dato. Non è più usato in macchina, no? No, no, no, abbandonato, non è appassionato di baracchini di CP, no, no, no. Sicuramente è come abita meglio, ho un po' la voglia poi, se no non ti nasce da piccolo, non c'è la passione, no, la canturi, dunque dammi a me, te lascerò dentro un armadio, dopo lo prendo io, ogni tanto lo faccio girare, adesso sto usando questo, con l'MP più 4. Vabbè, non è che sia basso basso, ma mi fate sentirti il radio più forte, capito? Va bene, dai. Perfetto, no, comunque sulla radio in sé, come faccio a prendere il segnale, la radio, la modulazione va bene? O trovi qualche imperfezione? È chiara, non è nemmeno occupa, è chiara. Perfetto, va benissimo, avanti buon pugno. Via, madonna. Ti stavo dicendo a lui, non a te, che ho messo la chiavetta fuori dalla camera mia, dove c'è il baracchino adesso, e ho fatto, come hai detto tu, torno, guardate se punto, eccetera, eccetera. Ah, mi ha passato questa cosa, però è salita, non ti dico nulla. Come ti ho detto io? Ci volevo mettere a fare. Perché lo sta ritardando? Sentivamo che il video lo vediamo attacca, cioè infatti è ritardato. E dipende dove entri. Io non ti ho detto di andare lì, ti ho detto un altro sito. Sicuramente è sbagliato. Ma scusa, io sono entrato come sono entrato, lo sai che non capisco un accidente questa cosa. Mi sono divertito, ho guardato questo filmato, a metà poi mi sono stoppato le balle perché cazzo faceva prima l'audio e poi il video. Sicuramente sei entrato da qualche altra zona, no? Devi digitare quello che ti ho detto io, allora lì lo vedi dall'inizio alla fine. Sono filmato da un minuto, 5 minuti, 10, un'ora, dipende. Dipende, lo scegli tu il filmato, ti dice tutto quanto, puoi mandare avanti, indietro oppure scaricartelo senza problemi. Comunque già te lo passo, già te lo ripeto un altro momento, dai. Non sono discorsi adesso a quest'ora. Ecco, io ho trovato la bellezza di farlo funzionare. La verità si dica, perché gli anni visto prima non funzionava un accidente, ho messo in camera mia, mi sono girato le balle l'altra notte, ho messo la terra lì, faccio la ricerca, crack, preso in pieno, ho fatto la... Invio, crack, mi ha passo tutto, mi ha passo, culo, tutto ciò. Che già avevo vista giusta, bene, l'unica soluzione era quella lì. Con la possibilità che avevi dell'antenna, giustamente devi dirigere da dove c'è il segnale più forte, ecco, ti dà la possibilità di navigare tranquillamente senza problemi. No, già va bene. Comunque vabbè, se conosci qualcuno che è bravo in queste cose, ti può installare, sempre tramite internet, un buon antivirus che ogni volta che tu ti colleghi si aggiorna automaticamente, senza che tu fai nulla. Quello che si è autoaggiorna e dunque diciamo rimane un pochettino più protetto del solito, ecco, tutto lì. Avanti Gianni. Adesso anche Antonello è motorizzato. Antonello, sai cos'è il problema? Che lui oggi mi ha fatto la foto, mi ha messo su Facebook insieme al cane. Chi fa Antonello? Ma che schifo, se ci sono io su Facebook, chiedimi l'amicizia, io ti do un cane, poi c'è un cane anche. E io dai, ti metti simili su Facebook, dai, cerca di ragionare, usa un po' la testa. Non so, non mi capisco, scritto io la verità, mi ha scritto Alessia stasera. Mi ha messo lì la fotografia, brutto come sono la verità, meglio niente. Troppo chiaro. Mi sono pettinato. Ma capito io non ne ho. Caro. Non c'è più capelli, no. Mamma mia. Ma li ho persi. Caro. Buonasera a te. parrocchia di Luigi. Avanti Gianni. Supposa che Pisellino sia a posto. Ciao anche a te Luca. Ciao Luca anche a te. Ciao a tutti, buona sera. Antonio, ma avevi chiesto per quel... sei andato? Non ho fatto il tempo stasera qua. Non ce l'ho fatta, fate la verità, non voglio fare. Ci vado comunque domani a chiedere quel... con integrato. Può sembrare accortissimo, tanto che bisogna andare così vediamo un po', ecco, io faccio cambiare. Non ti preoccupare, te lo procuro, te l'ho promesso, te lo procuro. È bello Luca. E allora se per il pisellino poi come fai? Davvero me. Ui, ci sta aggiornando la rischia qua. Ci ha messo anche a te, ci ha messo per ha messo un po' di nomi, che amicizia, non so niente, gli ho detto, fa quello che vuoi, arrangiati, gli ho detto. Chiarissimo. Mia nipote, lo sai chi è? A mia giovane. Piglia. Ciao Luca, buonasera. Allora ci sono qui, ci faccio in bocca. Buonasera. Ehi. Ciao avanti. Sono su Facebook, mi faccio il vero gioco, se mi guardi per carità, guarda, c'è anche Scooby. Aspetta, guarda. Adesso lo pittavo. Mi passo un cucuao, sì. In culo, sì, un cucuao. E allora già, e te minara già. Ti dirà. Caso e lavoro mi, Antonè, non sto facendo nulla, sono andato qualche volta a pescare, ma... sono sempre a casa e lavoro, perché sto finendo anche tardi molte volte, quindi un po' stanco là, non stavo manco entrando, anche perché vabbè c'è poca gente o nessuno addirittura, ma ci sono qualche volta se posso correre, quindi spengo subito e vado e faccio altro, però in casa sempre mi guardo un film in 3D, qualche cosa me la guardo. Ma però mi trovo. Eia, con due T, come Giovanna, boh. Una, non ci sei. Antonio. Una, Bittau. La notte. Comunque se la parola Bittau c'è scritto. Poi c'è scritto, vabbè, quello che è... è scritto all'inizio, non lo so. Aspetta, con che controllo devo dire subito. Sto vedendo, cercatola. Volevo dire a Gianni, tuo figlio Leoncino, non l'ho più sentito, che fine ha fatto? Mi sembra lavorando, sta, io ho sentito quando è sabato, ma sta sempre lavorando, finisce il 14, ha detto, 14 dovrebbe finire, da questo sabato mi sa che siamo lì. Poi ci già ci sono, ma trovato Giovanna per sbaglio, cosa ne so che io, comunque ci sono, sono ricerca. Ho fatto comunque, mi ha trovato Giovanna, senza neanche cercarmi, figurati. Dice, ci sei tu Antonella, tu mi hai messo tu Alicia, la verità, gli ho detto. Antonella, guarda sopra nel computer, quando tu apri Facebook, sopra c'è scritto Antonello e guardi il nome che ci hai messo, che lo sai. Comunque il computer è spento adesso, non mi aiutano a riaccendere niente. Questo domani lo vediamo. Ah, vabbè, là. Secondo me il computer non è che mi ha fatto poi tanto, già lo sai, quindi... E Luca può vedere, perché Luca ce l'ha la mia amicizia, tu ce l'hai Luca e perché te la fa bene. Sì, perché ho la voglia. Gianni, guarda se va bene adesso, cambia qualcosa. Perché c'ho uno splatter, non sento nulla. Aspetta, ecco perché. Adesso te lo dico. Allora, Luca. Antonello Simona, allora c'è scritto Antonello di Simona, @gmail.com, un po' che poi c'è scritto, Facebook. Suocera o chioccio, ma quello non è di numero del conto. Aspetta, siamo qua, facciamo un caso, sono sicuro. Ripeti le mail. C'è scritto Antonello Di Simona, @ gmail.com. Simona, potrebbe essere Antonello e Simona, no Di Simona. Allora, Antonello Di Simona, @gmail.it. .com, non punto com, dove è? Punto com. Sì, com. Adesso sono qua, lo vedi? Adesso sì. Poi c'è scritto un po' di password, ho scritto un po' di cose, sul magazzino. Ma questo è tedesco, questo. C'è anche Scubi, c'è Scubi, Antonello, Di Simona, anche lui c'è. Lo sto suggerendo, Antonio Bombo. Ginko, Adolfo Paris, aspetta, poi a Daniele, poi a Massimiliano, aspetta, tutti avanti sono, Gli amici, ma se hai amici comuni adesso già, dico sì. Cosa ne sono cielo, sono stato la spesa. Scusate, Gianni, guarda se va cambiato qualcosa così. Poi ti sento, ma ti sento male perché c'è uno splatter forte, non riesco a sentire. Ah, non mi senti? Ti sento tutto strano perché uno splatter come se ti mette sulla portante. Ah, va, cambia. Gianni? Già. Cambia così qualcosa? O ce l'hai sempre quel disturbo? Quel? Disturbo che mi stavi dicendo, c'è adesso? No, negativo. Beh, non ce l'hai, nel momento che c'è il disturbo, no? Ce l'ha già nel disturbo, non tu, hai capito? Tu è a posto, tu stai andando bene, il disturbo ce l'ha lui già in queste strade, hai capito? Non ce l'hai tu. Ecco. Oh, avevo capito male. E per te, come mi senti? Com'è la radio? Ti piace? È buona per me. Vabbè, va bene mio Antone, va benissimo. Io ti ascolto chiarissimo. E lui che aveva questo disturbo, non so se si tratta di vicino, capito? Se no io ti ascoltavo perfettamente, chiaro chiaro. Sei un Santiago Ghiotto qua, da me. Perfetto, ma vabbè, proprio di Santiago, non neanche del segnale, come radio? Se andava bene o toccare qualcosa, troppo chiaro o troppo cupa? Perché devo fare alcune regolazioni, per questo che me le scrivo, se me lo dimentico. La lascio così? Va benissimo? Allora, a dirti la verità, la radio è ottima, non sembra però che sia un microfono, un MF5, l'ultima è MF5, come si chiama. Puoi dargli appena l'amplificazione in più, prova a vedere, prova a dargli un pochettino in più se cambia, però va bene com'è, però potresti dargli un po' di più perché non è di senza molto. MP+4 ed è regolato a 5, guarda, adesso lo metto a 8, vedi un po' se cambia qualcosa. E cambiasse meglio, molto meglio, la radio è molto superiore, si deve essere più bella. Forte. Era prima sembrava molto chiara, molto pulita, sembrava un microfono palmare normale, adesso si sente un po' che non va bene, la voce va bene, va benissimo, prova a aumentare a quanto arriva quella, 8 a 9 si fa. Fa da 0 a 10, adesso è puntata a 8, prima era 5 e poi a 8. Ora a vedere cosa si sente. Poi così è tutto al massimo, è a 10. Ah, guarda, secondo me 8 è l'ideale, secondo me, provo a vedere Antonello Pomponio che lui è già più orecchiabile di me, dai, questo, per me va bene a 8. Per me va bene sui 2, ma quando si allezione io va bene. Dunque internet va bene così, guarda, così a 8 Pompo, poi sto regolando. E l'ho messa a 5 adesso, cambia? No, meglio a 8, il tono è meglio a 8. A 8? Aspetta. Adesso così è a 8. Che differenza c'è? Fammi capire. Da 5 a 8? Molto più grossa. Sta bene così. Perfetto, vi ringrazio. Dai, lascio così, ok. Avanti Gianni. È fatto da 8 a 10. Prova la 9, allora. A 9, aspetta. Così è 9. Così è 9, 1, 2, 3. E così è 8, 1, 2, 3. Ma non vedo molta differenza. Può andare bene sia a 9 che a 8. Non la noto tanta differenza della velocità. Non l'ho notata. Va bene anche a 9. 9, 8. Comunque 8, lascia la 8 che fa bene. Adesso ti ringrazio. Ascolta. Perché ho abbassato tutti i watt, perché se no ci splatteravamo a vicenda e non faceva. Io non pensavo di splatterare, ma ci siamo accordati adesso. Vediamo un pochettino se Antonio mi sente. Antonio, dimmi che già. Ma mi intende? A voglia. Parla già, va bene. Al minimo sono proprio 0,0 di watt. Proprio al minimo. Ok, va, così almeno parliamo tranquilli tutti e due, perché lui non canale, io sono nell'altro, siamo vicini, se no ci splatteriamo a vicenda, non ci capiamo uno né uno né l'altro. Ah, c'è il vincente, diciamo, in zona che stava modulando, per quello è. Non ho capito. Cioè, c'è qualche altro canale, non ho capito. Ci stavano splattando con un'altra persona che è qua vicino, quindi siamo messi d'accordo, lui ha abbassato il microfono, lui ha abbassato i watt che erano a 10, li ho messi a 1, più che così non si può fare, ma siccome è una persona molto comprensiva, siamo arrivati al patto di abbassare, via. Sì, ma tu la sai una cosa, cosa è successo? Che tu hai abbassato i watt e hai aumentato di parecchio la radio, tu lo sai. Vero. Ha aumentato la radio di parecchio. Confermo, è di brutto pure, e non di poco. Quello già lo so anch'io. Di brutto ti dico, mi sa. Tu sei brutto! E Antonio, buongiorno. E se faccio così, aumenta. Poi fai quasi distruzione. Non sei saturazione, sei compressa appena, sennò. Se quando riusci il vato c'è più forte con Galaxy, la cosa logica. Perché ti mette la radio. Io entro a salutarvi e vi auguro a tutti buon proseguo in questione e maestro la nanna. Ciao, buonanotte a tutti da Claudio Sparviero. Ciao Cla. Ciao Cla, col microfono provato vai. Non lo sentire questo. Prova, aumenta un po'. E cosa devo aumentare? Come è arrivato così, ho lasciato la tonalità, l'ho lasciato così. Dai, buonanotte a tutti, buon proseguo di questione, divertitevi, ciao. Cazzo, che bello, guarda. Veramente bello, guarda. Ma l'ha fatto uscire gli occhi fuori, ma... Non so, Antonio, le cose bisogna farle bene, dai. Babù, ci sentiamo, buonanotte a tutti, ciao ciao, Gianni, riprendi. Ciao Claudio, buonanotte, buon riposo. Gigi, avanti. Ciao Cla. Comunque, se lo vuoi sapere, io mi sono alzato alle 3:20 stamattina. Sono uscito da piazzale alle 3:30. Mi ho alzato le ultime, sono uscito alle 3:30 da piazzale, sono andato in diretto, ho caricato, ho fatto, reso conto dei chilometri, ho fatto 715 chilometri. Ho percorso. Ma io ho mal di testa, sono stanco mentalmente, sono tutto il giorno attaccato al computer scrivendo e facendo. Sono stanco, mi fa male anche il braccio oggi. Ci sentiamo ragazzi, divertitevi, buonanotte a tutti, alle prossime, ciao ciao. Ciao Crack, ci sentiamo alle prossime, stai bene, buon curitivo, buonanotte con tutto. Io ho fatto 715 giorni. Già basta, ma... Sai guarda, che sono dovuto... Da quando ero già a Florina, già, mi si è accesa la spia del gasolio, del coso, e sono dovuto andare a portare a caricare, sono dovuto entrare in piazzale, tutto giusto, e mi dava che avevo 30 litri di gasolio. e dice non pesca bene, sono fuggito, e sono arrivato giusto giusto, sono andato in piazzale a fare a metterci 100 litri di gasolio per scendere a Polotorre, e poi ho rifatto il pieno. Ho fatto il pieno, ho messo quasi, consumato quasi 400 litri di gasolio. Già ce li hanno le spese anche loro, faccio tutti questi chilometri. Credo. 300 litri, un bel. In di là quanto sono? 400 litri, fai che ti viene 1,50€, 1,70€, quanto è dal su? Non so quanto sia. Comunque parecchi di 1€. È un bel di nasso. E così sono i pescherici, amici. Una volta stavo pescando proprio a fianco al rifornitore dove si mettono a rifornire le barche. E questo qui ne ha messo 400 litri. E ho detto, ma quanto vi basta questo tanto qua di questo pieno di benzina? E di gasolio, mi ha detto, faccio andata e ritorno, me ne avanza appena appena. Quando faccio da qua da Ripuzio, vado a Cagliari, carico e carico, sono 226 litri di gasolio, 220 litri di gasolio consumati, sono solo Cagliari, dai. Lo so. Vabbè, comunque, guardate che vi la vai, tranquillo, dai. Io mi ricordo quando sono andato a Sirmione, ne ho fatto 340, mi pare. Però mi sono fermato una volta all'autogrill, mi ho mangiato un panino, ho fatto un bicchierino e via, e poi siamo ripartiti. Va bene, quello non è niente, ora farlo in camion, il camion fare da Vecchia che sono chilometri, è parecchio, l'ho fatto qualche volta, è parecchio lontano. Cosa, Civitavecchia a Bari? È in camion, però. E quanto vai di solito con la cabina autostrada? Lì c'erano il telecomando all'epoca. Telecomando, capito? Telecomando e della velocità camminando. Ah, di quelli che avevo fatto. Ma cazzo, se no guai. Saranno. Io vedo che era più difficile, credo. Vabbè, io ne ho fatto 3,20, ma in macchina, la verità, la macchina è già più comoda. Anche se esce comodo, stanno facendo come le vetture, belli comodi. Case sedili ad aria, tutte queste cose qua, gigillate. Positivo, dai, io ti puoi immaginare, io sono uscito, sono detto, alle 3:30 da piazzale, sono arrivato al punto di scarico che erano le 9:30 passate. Cazzo, la mano c'è andata lontana. Cagliari è stata detto in provincia di Nuoro, lontana. Ecco, Cappagà. E montagna, lo travaglio ci guadagna. Avanti Antonio. Dimmi. Tu quanto puoi dire che vedi? Gianni, Bombolino, Carlo, sono quattro, buono barato. Poi Tomato Maria, sono Marco, Luigi, e se sono ballate. Ma io non c'è solo che tu donne, sono di quelle brasiliane. Ah, anche io faccio un che c'è scelto. Adesso già devo ricogliere amiche brasiliane, mandami di venire. Così almeno, cioè te la faccio conoscere, gli faccio mandare amicizia anche a te. Io già ce ne sono tante, Antonio, da me. Adesso se ne metto, sono Teresa.com. Ciao, sono un mese che non scrivo niente, non controllo niente. Un mese poi sono andato a vedere una cosa per Sandro un giorno. Niente, però, vedi, Antonio, che te modifiche certe cose, vedi, certe modifiche. A me, io ho fatto una modifica a quel coso di Antonelli e Sandro, Sandro del Porto Torres, e l'ho fatto tramite computer, abbiamo guardato il computer tramite l'aiuto di mio figlio, e niente, mi ha fatto vedere tutte le modifiche come dovevo fare, tutto in grande, tutto la visione in grande come è fatto, e siamo visti che in 10 minuti abbiamo fatto tutto. E per quello che me l'ho messo non per altro, la verità, per togliere le modifiche fuori, tutto degli apparecchi, perché ormai senza fare, cioè, senza fare schemi a chiedere agli altri è un casino. Allora, pigliato quello del tatto, non me ne fotti nulla. Tanto non pago nulla io la tasse non le pago, non pago niente, quindi sono a posto, tutto gratis. Un filo c'è da tagliare, facciamo vedere il filo con la forza che non ha tutti in realtà, prestare un ponticello e più c'era, facciamo vedere il coso che è visibile, visto, facciamo vedere il ingrandito, però poi ci vorrà fare la rete di contatto per vederlo, cosa toccare per i fatti, come fare 120 canali, tagliato il ponticello, 120 canali. Poi ti diceva cosa toccare per farlo salire a 15 watt, cosa toccare per aumentarlo di radio, cosa di tutto, di infatti, tutto quanto, tutto spiegato e scritto pure anche in grande, facciamo vedere la freccia con tutto, disegno, colori, dello stampato dell'apparato, che cosa dovete toccare, dovete tirare quello, toccare quello, che è scritto in grande, è chiaro che cos'era e che cosa serviva, capito? E su che apparecchio? Prove c'è che c'hai tu. Su guarda, sì. Uno di quegli apparecchi tuoi. Io così un giorno stavo parlando, l'ho chiesto al vino, non ne do io di queste cose, dice io le faccio, lavori, non ne do di queste cose, e in propagazione mi ha sentito questo, dice te lo mando, c'aveva il mio valetto, dice tu apri la bicicletta e ti mando io, mi ha mandato tutto questo, tutto fa vedere tutto, ma tanti apparati mi le modifiche, tutto, fa vedere tutto chiaro chiaro come farle, chiaro, proprio chiaro chiaro chiaro, beh lo ingrandisci il computer, fa vedere tutto come fare, 48 quello per fare 120 canali, aumentarlo di potenza, di coso, tutto chiaro chiaro quello lì. Paga. Sicuramente il Midland, quello, il Midland Plus. Io l'ho fatto a Sandro io, ma due minuti, quello manderà qualcuno e te ne prende 50 euro a farlo. In due minuti l'ho fatto con Sandro, si conti a me, mi viene con Sandro, se può te lo facciamo. Se ho chiuso l'acceso, se non ho portato me l'acceso, mio figlio me l'ha trovato subito, mio figlio. Capito? E c'è addirittura l'altro mio figlio mi può stampare tutto, perché c'è la stampatrice, può caricarlo e stamparlo e mi dà le cose anche a colori, capito? Anch'io ce l'ho. La stampante, quello è anche questo. Ma noi abbiamo visto tramite il computer, abbiamo guardato, abbiamo aperto davanti e abbiamo visto chiaro chiaro qual era quello da tagliare, tagliato e subito c'erano 120 canali. Tutti non c'era bisogno di toccare niente, a posto. E disegni anche? Sì. Ma fatto a posto, perfetto. Poi c'era segnato cosa bisogna fare. È scritto, me l'ha scritto proprio lui, me l'ha scritto e fatto con la cosa, come si chiama, con la cosa fatto per lo fluorescente che si vedeva, è scritto in grande, questo prima serve, dopo che tu tagli questo ti apre, ti aumenta i fatti così, questo ti apre, girandolo leggermente a destra, ti apre, tutto spiegato, tutto questo qua, mi ha mandato. Dura. Scusate, anche faccio un attimo di bianco. Quanto? Ci sono quelli più, diciamo, che largheggiano, qui sono quelli che sono gelosi del suo lavoro e non te ne dite. Si chiama Cristian, e poi l'ho conosciuto anche, e poi l'ho trovato anche di persona questo qua. fatto amico di quello delle antenne, capito? È uno dei primi che ha piazzato le antenne, come diceva Giovannino, le antenne di quello spogliato, di quel maglio spogliato, molto amico di quello lì. Ah, cappagallo. Sì, l'ho sentito nominare anche, ho visto anche il sito di Scoiattolo. Fa delle belle antenne robuste. E poi dirlo, però no, non è Scoiattolo, diciamo è uno di amico suo comunque, questo qua, dai, un amico suo. Me l'ha mandato, mi ha fatto, te lo mando io. Mi ha detto, mi ha detto come entrare, come fare. Loro si è detto, io posso entrare perché gli ho chiesto, ho la notizia sua, tu non ci potresti entrare, però io poi entro e posso scaricare tramite la stampante che abbiamo, se c'è la notizia. Sì, KK. Ma se c'è la Scoiattolo, come cosa c'è la amicizia di Scoiattolo, entro lì e lo becco. No, ma non tramite Scoiattolo. Allora io, quando ti ho parlato io con Scoiattolo, qualche anno fa, così, l'ho conosciuto un giorno parlando a Barattino, così mi ha detto che lui faceva antenne, ma tempo fa, tre anni fa, questo fatto qua, e mi ha parlato di questo Fabrizio. Questo Fabrizio è stato uno dei primi di avere avuto l'antenna sua, ma adesso se questo si trova in scuola, così e cosa. E io un giorno sono così, questo Fabrizio ma ero lì e l'ho trovato questo Fabrizio. E così lo conoscevo. Un giorno lui mi ha sentito e stavo chiedendo al Pino se mi dava le modifiche, ma te le do io. Te le do io, se le mando io, dice, nel corso se ne mando io, e così è stato, poi quando la sempre mandata. E con questo sito riesco a vedere tutto 8001, tutti 48, tutto come si spiega l'8001, come fare le, come assemblare le cose, lo fa vedere proprio, adesso metti questo, poi metti questo, proprio è filmato, hai capito? E ringrazio, fa vedere tutte le cose, come farlo, come te lo piace, capito? La scuola di modifica. Fate quella, vedi, quella pomponio diventi sarebbe comodo. Questo qua non fa il tecnico. Io non ho capito se fa il tecnico cosa fa, capito? Questo non lo so come lui fa sapere queste cose, ma detto, guarda che semplice a farlo. E se lo mando io tutti, infatti mi ha mandato tutte queste cose. Ma abbastanza chiaro, ti sto dicendo chiaro, è spiegato, è scritto pure, capito? Poi ti fa vedere il filmato, quello è filmato come le sue movimentazioni, come fa le cose, le regolazioni, che mette questo, mette quell'altro, poi ci aggiunge quest'altro stampato, c'è quest'altra cosa, fa vedere tutte queste cose, fare queste modifiche, lo fa vedere che lavorandoci sopra come cosa deve aggiungere, dove lo deve aggiungere, capito? Buono, è una persona mica davvero. Infatti Sandro è venuto a casa, abbiamo tenuto il computer, abbiamo aperto il suo compagno del corso, e se è andato contento in 10 minuti, abbiamo aumentato, abbiamo fatto 120 canali e aumentato tutto. Meglio così. No, è una bella cosa, io infatti non mi credete. È una cosa che io penso, non sapevo e lo so, io su così mi capita in mano di quegli apparati, ma sai che tu le porti e ne prendono 50 euro per fare quel lavoro lì, 50 euro, è una minchiata, Antone, se capita, guarda, te lo faccio vedere il computer, è una minchiata fare quel lavoro lì, vedendolo da questo lato, c'è il discorso davanti, lo vedi ingrandito, perché è una cosa che è talmente minuscola, Antone, se tu prendi quel 48 del B, come si chiama quello che serve a Gianni, quello lì è talmente tipo una lente di ingrandimento, invece lì il discorso lo fa vedere grande, enorme, enorme, capito? E tu poi con lente di ingrandimento vedi qual è quello che vuole tagliato, quello dove devi tirare, che devi toccare, capito? Tagli, guarda, tagli questo ponticello, che è una cosa difficile, lo tagli e in automatico vanno i canali, come se avessi quel 48 c'è di più, e vanno i canali sopra e sotto subito. Io c'ho il 48 plus adesso. E quello lo stesso, quello se ne fa anche il 400 addirittura. Qual è la modifica di quello? Quello stesso, sapere della modifica, capito come fanno per fare 400 canali, capito? Se sono, capito, se lo c'è pure a fare. Ma le console BSX c'ho quello di esportazione, c'ho quello di esportazione, non quello normale. E quello di esportazione è quello rispetto, capito, quello di per fare i canali. Se vuole poi, io ho mandato per esempio a Corso da Alpino, da pagina della parte Alpino, a Luca quello di Pisolo, ti ricordi quel baracchino che era tutto quanto, ti ricordi in Alpino, e abbiamo andato da Alpino a farglielo aprire a Corso, e l'hanno preso per fare roba 50 euro, e gli ha fatto il canalino per sotto, e più gli ha aperto il corso, il radio, il corso. Cappaga, non ho più sentito a Pisolo. Se l'ho visto anch'io che vuole andare in piedi, come manco. Sta scoppiando, ma tutto che sta facendo. Ha pagato bene lui, ha pagato bene veramente, ma bene. Se no si sarebbe trasferito, ha fatto bene a trasferirsi. Se il lavoro era buono, quella è la ragione. Prende quel lavoro e mette la cassa. Si è comprato casa e quello, ma lo può permettere solo con quel lavoro lì. Capito? Solo con quel lavoro. Con quel lavoro lui arriva anche a 4.000 euro al mese, lo sai. Allora, pagato bene sì allora. Ma dipende dalle poste. Ora per le poste se lo fa. Lui non c'è lo sabato che non lavora, mia attenzione. Lui è tutta la settimana, lui è la domenica che si ferma e qualche volta è partito anche di domenica. Lui non c'è un sabato che non lavora, lavora sempre anche se c'è la festa e deve lavorare. Adesso stanno cercando uno a sostituirlo per farsi un po' di sì. Campaga. Vabbè, insomma. Sta bene. Se uno lavora oggi ed è retribuito come si deve, lo fa anche volentieri il lavoro, non ti pare? Se lo fai come se lo fai volentieri, cavolo, e come? Lo fa tutti in Italia, lo fa le poste. Ah, io ce l'ho sentito, forse l'ho sentito e lasciava le cose alle... ed è vicino, non so, c'è il padre che dice la teoria, me ne vado a pranzo da babbo, tanto che se ne vado al padre o dalla madre lì a pranzo, a mangiare, tanto arriva lì a ora delle due, capito, 1:30, 2, e mentre caricano il rimorchio, se lo ricaricano, lui se ne va dalla mamma. Cappa, lui non tocca nulla, quindi l'autista e basta. No, sono da dietro e fanno tutto quelli là. Lo rinchiudono, lo piombano e lui lo porta in parte, se lo imparte così. Ma ecco. Hai visto? Beato lui. Adesso quello è un buon serpentatore, 4.000 euro oggi. Sono buoni davvero. Sono suo e... cacciate il rimorchio a sera quando è in porto all'imbarco, non deve perdere tempo, deve andare, deve arrivare per forza, lo deve imbarcare la sera, non deve perdere il cazzo, lo deve imbarcare e se ne va a casa, poi domani mattina deve prendere l'altro, se lo aggancia, deve solo agganciarlo, deve fare altro, agganciarselo e andare a portarselo a Cagliari, parte dietro, a Rempli, il portellone dietro, aprono, glielo riscaricano, glielo preparano, glielo chiudono perché gli mettono i piombi loro e lui deve solamente partire e riportarlo in porto. Vabbè, fa da un estremo all'altro della Sardegna, comunque lui c'è l'appoggio sia da una parte che dall'altra, quindi più bene di così si muore. È positivo, no? Vabbè, va leggero perché è forza ed è leggero, però è ben pagato, quando tu sei ben pagato tu lo fai anche volentieri. Quando poi sei postale devi venire dalle poste, sei lavori sicuro e tutto quanto, non è che... Vabbè che sono privatizzate anche quelle. Che prima gli pagavano la casa, quelli sono attivino, la differenza, ma perché dobbiamo spendere tutti questi soldi? Santo Maretto, se vogliamo essere produttore di Cagliari, no? E allora se è dovuto cercare lui la casa, se no è un casino. Così è un meglio dormire in casa. Dai, pagava la casa, capito? Pagava la casa lui. Cavolo, ma non era, secondo me non era compito. Per qualche anno gli avevamo pagato, ma poi ha detto, ma lui ce lo fa fare. Se prendiamo l'office del produttore se risolviamo il problema, no? Così. Beh, ma ce l'ha presa anche una casa in affitto il direttore Sacchi prima, ti ricordo. E quando l'hanno da quella lì, se non noi dice l'affitto della casa, no? E allora poi ci ha preso quella del direttore Sacchi e poi ha deciso di comprarsela, perché il lavoro gli conviene a lui stare qui, si è trasferito qui, perché c'è un buon lavoro. Ho pagato bene, non ce n'è altro, ho pagato così per me. Pagato. Vabbè. Oh, gli autisti sono tutti pagati bene, ma 4.000 euro sono bene. È il doppio, quasi il doppio dello stipendio di quanto prendiamo un autotrenista. Lui non c'ha, lui è garantito. Lui deve andare, non c'è niente da fare. Lui, se c'è da camminare, cammina. Se c'è con trasmissione, coso... Pensa, lo stipendiano lo stesso, però deve marcare lui, capito? Anche superando la velocità, ci pensa tutta la vita, però interessante che si parti il rimorchio la sera, capito? Ci pensano tutto loro, capito? Lui e il cocchiere pagano tutto loro, capito? Però lui deve marcare il rimorchio la sera. A quell'ora deve essere lì praticamente, non c'è da fermarsi a bere, non si può fermare, dai. No, se vede che è ritardo, deve accelerare, correre, per fare, si pensano, se mi chiede la patente, quando c'è lo stremente, fermo, ci paghiamo lui 3 mesi, però se c'è il volto di fatto. Esce, dentro. Dimmi, sono a computer. Oh. Non so, se avete aprendo più che altro adesso. Andava, tanto era. No, ho detto che facevo un attimo di Corrix. Magari rientra. Quanti chi ce l'hai? Ti mandrone a rispondere. Vabbè, riprendici. E comunque ha fatto bene, ha trovato una bella zona e tutto. Ma ci sono andato già due volte per assurdo. Ma basta, Elsa. Dopo che ha fatto che ho detto la 3 centimetri la soglia la siano di 6 centimetri, adesso che dovrebbe piovere c'è l'acqua dentro casa, ragazzi, 3 centimetri, hai capito? Perché in questi cosa la siano di fuori a dentro casa dopo che la soglia adesso è già un po' di 3 centimetri, troppo adesso che si di poco a poco fare un altro bloccante, una cosa o un coso che si sembra la testa della del pavimento. Paga, un gradino più alto vuole. È una casa molto vecchia, è riacquistata, ma è fatta in antichitaia, è fatta piano terra, non ho mai capito come. Forse almeno 20 cm, 30 cm, no, hanno 5 cm, 3 cm capo. E qua sta a rubare, io mi sono un po' d'acqua, dovrebbe andare per la terra dentro la casa, ragazzi. Ma che si è abbasciata? Ma siamo alla testa da 3 metri della terra, no, la casa. Non sono più a 3 metri. Tu sai che è a 7, tutto terreno in giro. E vabbè, poi fin là magari si può, magari posso prelevare, ingrandirla. No, è grande come casa, non è piccola, no? Non è piccola come casa, è grande, per il terreno. Qui ha dentro la casa, tutto il terreno di tutto, c'è un po' di altri, di frutta, di cose, per casino, quell'otto, c'è meglio, per posto, con l'acqua, no? Se, diciamo, è il terreno, c'è meglio, è isolata, poi c'è delle case sono vicino, ma vicino, non so, 50 metri, non so cosa. Sono un po' stancati, casi una veduta tra il terreno sarà dalla casa ai la piazza della casa era una buona quantità di metri, però non ci sono altre case attaccate, ho capito male, ecco. Sì, ho capito bene, è quel viotto che c'è a fianco agli Lioni, così, al ristorante. No, no, no, no, no. Tu salendo a Porto Torres e tu per il rifornitore. C'è il rifornitore che pare non ha abbandonato adesso del tutto. Come tu per il rifornitore ti devi tirare in quella stradina che siamo una volta del Pontificale. Continua, invece di entrare nel Pontificale, continua ancora a fianco al 131 e giù a destra lì. Attenendo per questo il video di bancale, capito? Sì, sì, sì, ho capito, ho capito. Il fornitore mi pare che ha fallito, poi c'è la Sanna, quello non c'è più Sanna, perché? Pare che è chiuso quel fornitore. Tu vai leggermente, appena appena tu prendi il fornitore, c'è l'ingresso a entrare. C'è una stradina a destra che si dalla chiesa del fornitore. Entri lì, è il primo chiodo a destra. E quindi non si vede perché sono tutti gli alberi, capito? C'è un viale, una strada, un viale che scende giù. Sono sceso in vettura, io sono dalla strada non si vede, ma neanche in camion che altro si vede, perché sono molte piante, capito, già, non si vede, la casa è lì in mezzo, capito, sono altre case, un po' di case che sono tre famiglie che sono, e hanno fatto molta amicizia, sono più o meno coetanei, sono giovani, non è anziana, dicevo, sono giovani, di 40 anni, così, 45 anni di meno, capito, sono più o meno la stessa età, con figli piccoli, sei anni, anche di meno, si giocano col figlio, via dicendo, sono 3-4 famiglie, sono vicino, forse non attaccati attaccati, ma si possono andare anche a figli a trovare, e hanno fatto un buon rapporto d'amicizia con questi, comunque sono persone tranquille e anche giovani, da, giovani voglio dire, più o meno dell'età sua. E già mi hanno detto che ogni tanto mettono a scaldare la carne. No, cioè, infatti ho visto che sono fatto una tanto che mi fanno lì a le donne, le donne della moglie, sono due o tre case, non si può fare questo, capito, è stato di campanelli, è stato 20 anni, capito. Allora sta anche bene, vi ha trovato un buon ambiente, tutto, gioco bene. Infatti mentre ho trovato gente tranquilla, in gamba, infatti poi ho visto io, ho conosciuto i conosciuti fuori, io li gente giovane, io ricordo gente più o meno della sua, non sono gente più o meno, capito, coppie con uno, due figli, massimo, ho capito, dell'età dei figli loro e poi hanno fatto un corso da visita che vanno tutti a Pocotorre, scendono la mattina a portare a scuola, a fare il portamento in macchina, però si raccompagna la moglie a scuola e fanno un consenso di 3-4 mamme che sono e accompagnano la moglie. È meglio così, almeno si aiutano uno con l'altro, chi ha bisogno e cosa, magari quando sei lontano un po' dalla città e cosa, se ti serve per dire una cosa si aiutano a vicenda. Va bene, ho già fatto un attimino così a capicolino, capito che ho... mi ha chiamato uno per una telefonata. Magala, falla, falla, ehi, io per te non la posso fare, quindi vai. Ora, un attimino così a capicolino. Yeah. Avanti chi c'è sul canale 10 che vuole entrare? Un pugno, lascia il computer e parla. Ma qua sono qua anche per compare. Un casino, grazie, mamma mia. La carità, grazie. Con chi cazzo me l'ha fatta fare a me? Ecco che è successo. Cazzo, nel centro fiorentino è stato teatro di un'esibizione art di una coppia di ragazzi stranieri che sdraiati per terra nel parcheggio di motori. Aspetta. Nei pressi della strada di Dante hanno dato lo spettacolo, abbastanza sbalorditi ed altri che invece li hanno ripresi con il cellulare. L'esponente della Lega, Federico Buzzolini, che si trova in piazza insieme al consigliere comunale Mario Razzanelli, ha subito segnalato con fatto di foto l'accaduto al sindaco di Firenze. Incuriositi dal capannello di persone che si era formato, Buzzolini e Razzanelli hanno assistito alla scena ed hanno immediatamente lanciato un allarme. Piazza Santa Croce e poi di controllo. Una delle piazze principali d'Italia è diventata un bordello a cielo aperto, così è una comunità di Santa Croce, la Piazza del Carroccio, la Piazza del Carroccio, la Piazza del Carroccio, la Piazza del Carroccio, la Piazza del Carroccio, la Piazza del Carroccio. Cioè, hanno fatto l'amore dove? A Firenze dove? Sotto la statua di che cosa? Che piazza? Dato che ne è una di coppia così, io una volta a Roma, ti giuro, l'ho vista in Piazza del Popolo, questa tipa che faceva il giubbotto sopra, si prendeva il giubbotto e faceva delle tette nude. Sono andati i carabinieri, gli hanno detto di ricoprirsi, si è coperta, poi come sono girati i carabinieri, si è di nuovo tolto il giubbotto e devono starsi in un... E non doveva essere giusta. Era una ragazza giovane, era una ragazza che aveva avuto 22-23 anni. Su Facebook non sta la bella. Se salvemo 2012 addirittura adesso. Avremo 18, ce n'era le luci, 23, ci vediamo a casa. Esce adesso, è dalle 4. Pagava. Domani, eh? Domani, eh? Martedì. Sì. Ah, domani comincia proprio la settimana piena, ui. Tu Antonio lavorava sta? Niente, ma con cancelli questa roba qua. Nulla. Se devo fermare. Io sono fermo. Perché Giuseppe lo si è detto sabato, detto che finisce il 14. Che meglio per lui? Tanto era già pronta, l'abbiamo già smontata, questa sarà casa sua. Vedrà lui cosa può fare. Non lo so io. L'antenna, che altro devi dare? Io, la mia piccetta di Giovanella già smontata, deve essere una giornata a prendere per farsi la casa sua. Di Gio Mari? Io. Ah. Quello di Poppa, compa di Filippo la Reccia. Appunto, vedo lui cosa può fare. Io non dico niente a lui. Se no poi devi andare. Anche l'altra. Non c'è problema. Ma Antonio, vuole messo un palo come si deve delle staffe come si deve, una volta che c'è quelle staffe, quel palo come si deve, l'antenna la puoi mettere bene, ma così in caso tutti i pali aggiunti, tutti è un po' lavoro fatto così, mica ci sta facendo anche troppo bene per come è piazzata la roba. E guarda che il palo gli ho regalato io, già lo sai, quindi non so pali aggiunti, il palo è quello che ho io a casa, va a casa sua. Quel palo invece che è a casa sua, quello lì si usa se la piglia in culo. E più il palo che c'ho in campagna io, un certo piso e basta. E si mette l'antenna, ci vuole 5 minuti a fare quel lavoro, ci vuole altro. Dipende da lui, non da me. Io cosa vuoi che faccia? Se io entro a lavorare, se non te vado a fare il lavoro a lui. Il cosa è questo? Se passa avanti, io non posso fare niente. No, ma io sto parlando di pali che c'ha adesso, non di quello che devi dividere tu, di quelli che c'ha adesso. Sono pali, un pezzo ne ho dato io, un pezzo ne ho dato un altro, capito? Sono sempre pali un po' così, e sono arrangiati. Quello che ho dato io ce l'ha, diciamo, abbastanza buono, perché io l'ho messo più grosso, quindi quello più fino l'ho dato a lui. Però diciamo che perché è un po' arrangiata là. Ascolta, il palo che voglio dare io sono il palo che ho io in pratica, sopra l'antenna. È perfetto quello, va bene per lui. Quindi così non posso fargli io. A quello ti posso dire. Io secondo me voglio attaccare un palo d'acqua come si deve, che pesa. Invece lui purtroppo quello discorso non puoi farlo, perché se non piace un palo del genere, mi scende proprio in terra, il discorso è quello lì. C'è una cosa leggera, hai capito? Sì, già lo so com'è. È un punto un po' critico è da mettere l'antenna. Lì ci avrebbe avuto una scala aerea o qualcosa di simile. Tipo quelli che ci stanno legati ai fari dell'Enel, le luci dell'Enel, le cose. Con quel cestello, comunque se riesco a fare tutto il lavoro, e dopo fare, solo che dopo c'è qualche problema, è un casino. E appunto, perché sono obbligato, ne sono scese quelle che sono state pescate da prima, ne sono trovate in terra, e anche le mie addirittura sono pericolose. Quindi bisogna fare il buco nuovo, installare il cestello chimico, metterci la caffa dentro, pulita, dopodiché aspettano 5-10 minuti così che sono, dopodiché ci prende il foro e si mette l'antenna, e lui è a posto, e ha finito i problemi. E ha detto che l'antenna è uguale alla mia, esce perfetta. Ma io, Antonio, lo so come è fatto, però io lì ci avrei messo dei tasselli murati, che sarebbe l'unica, anche uno basta, è un tassello di quelli, di quelle staffe murate, di quelle a triangolo, appuntite, tipo quelle che mettono nelle antenne del televisore, così grosse, basta una di ghisi che sia a posto. Tu parli bene come me, il discorso è quello, lo sai che lui il soldo non lo spende, quindi cosa vuoi fare? Gli vuoi comprare tu e per dire tu? Ma io gli ho comprato già una staffa, gliel'ho data io, quella con l'anello per vedere, gliel'ho data io, il tubo gliel'ho dato io. Ma tu hai dato un tubo se per questo la campagna? Il discorso è quello, se lui ci vede cosa vuol fare? Il discorso è quello. Non so, io non posso dare io, cioè io non posso chiedere i soldi da casa mia e fare la roba a lui, il discorso è come già a un certo punto il discorso è quello, non so cosa dirti, quindi se ne trattate 10 euro di tessuto chimico non so niente, la verità, perché non so niente, si parla da cosa, lo spicci come tutti una la pistola, ma fate il lavoro e lui ha 30 anni, 40 anni anche con l'antenna. Vabbè, e chiedo di rimanere a Brescia, perché sennò Fabrizio le avrai tutte, le faccio io le staffe, te le metto io e vedrai che non si muove più l'antenna. E lui ha detto va bene, e poi ha fatto come ha voluto lui, perché si piglia la Brescia. Sì, la Brescia, oh yeah. Fabrizio ha detto che guardava il lavoro, vedeva come fare le staffe, le studiava bene e le avrebbe fatto un bel lavoro sicuramente. Non c'è stato nulla a quello, non c'è stato proprio niente, cazzo, il discorso è diverso. Boh. Non c'è stato nulla, cazzo, le staffe sono quelle che tengono il palo dell'antenna. Se tu non li metti delle staffe buone, te le straccerà sempre. Mi fa piacere che... Allora, se tu compri il tessuto chimico, il lavoro viene fatto bene, ma se tu invece lo fai fare così, il lavoro non va mai bene, il discorso è quello, hai capito? Devi tirare la roba giusta, non è proprio la roba sbagliata. Ma altro che tessuto chimico, te se lo muri, oiui, Antonello, se tu gli metti le staffe murate, lì non si muove di più. Sì, lasci un tassello... un tassello in terra, un altro 20 cm sopra. Ma come fate rete, scusami? È come se un muro ci lo butti in terra, ma tu non hai visto il muro di casa sua, fuori, che la, non l'ho visto tu già. So che è un punto critico, ma mi pare una volta l'ho visto. È un punto critico perché c'è quella mantovana che scende, sì. Mi sarebbe l'ideale fare un buccolino al tetto e fare passare il tubo all'interno e cementarlo. Non va bene, come dici tu, non va bene, non va veramente bene. Hai capito, non va bene. È critico il punto, non è che sia un punto buono, ecco, quello sì, quella è ragione. Me lo ricordo che il punto era un po' così. Ma magari... E lui che lo vuole mettere da quella parte, magari si rubava un altro balcone e andava. Magari lui che ha trovato il punto più da chiedere, strano, Comunque sì, ci vogliono assurdi a fare il lavoro bene. Cadevate se non si può fare niente, le cose quello lì, Gianni. Se vuoi fare il lavoro bene, ci vuole il muratore, ti faccio, ti fanno il lavoro, ti metto le gaffe, attaccate al muro col cemento rapido, e verrà che non si muove più. A tassare così com'è, la verità non lo so. Anch'io quella di una fetta a sedi non mi sono mai permesso di pensare il palo, sono bene invece ne vado all'interno, lo sai. E infatti è rimasta piazzata dove fino a in quella grappa dove c'è la parabola. Ti è praticamente scesa anche con i tasselli chimici, così è. Ma il tasselli chimico è stato attaccato nel buco, solo che c'è un pezzo di ferro all'interno, capito? Quindi è un casino, è stato messo di spiego un po'. E di fine, se io metto un po' lì da 4 metri, nel 120 interno me la scende, perché si svita il tasselli. Ragazza, infatti volevano più grosse secondo me. Ce li ho tasselli più grossi io, ce li ho. Non li ho perfetti perché motivo lì ancora. Siccome non voglio bucare il muro, dato che c'è il coso già attaccato, non faccio altro che saldarmi il palo con la salvatrice, alla gaffa della parabola. E se la tolgo ancora. Hai capito? Mi servono qualcuno c'è per una scatrice che mi sale però d'acqua attaccata lì al palo della parabola, sono a posto io sicuramente più quella gaffa gaffa Gigi non ho rialzato ancora bisogna studiarlo bene cosa fare lì perché ma ci vorrebbe con la scalata fai tutto perché lì lavorare viene male dalla finestra ti devi sporgere, ti devi mettere a repentaglio tu per l'antenna, la biglia e luce. Ah, cioè, non dico di come già, e cioè devi mettere seduto, devi mettere l'antenna in mano, ricordi sì. No, io sono venuto, quella volta è già messa, stavate solo regolando le stazioni. La volta è già messa l'antenna, la verità. Però mi ricordo adesso come la situazione che bisogna sporgersi perché Grode stava regolando le stazionarie e si è sporto molto. Appunto, per quello sto dicendo. Lì non va bene. Lì il problema è. Un altro problema la verità, quindi bisogna vediamo cosa può fare lui quando si fa vivo la verità l'antenna c'è già pronta perché mi ha trattato Gio Maria e mi ha detto che l'antenna è pronta e prende lui e tirarsela appagata e va bene una volta che lo sento già glielo dico io di passare a prendersela che è pronta l'antenna. Poi si fa le buche, si mette un po' di tassello chimico, quello che è, se la biglia ancora, nuovo. Non è un problema per quello, già vece. Qualche cosa già ce l'avrà, che ha già guadagnato adesso, là. Appunto, se lo sarei mangiato prima. Esagerà. Paga, ma che è tu lì? Ah, tu è tu, mi ha freddo. Ha attaccato il genetto, dimmi. Questo non te l'hai preso il nuovo computer, vero? No, è quello vecchio. Quello che ci avevi visto prima? Sì, ho comprato solamente l'attacco wifi e basta, non ho fatto altro. Ah? E sarà gratis. Anche se con la pennina? Sì, con la pennina esterna. Con l'antenna, so. Comunque mi ho preso anche un tablet, se vuoi sapere, 100 euro. Nuovo, sta tutto, il computer. E io c'ero il computer piccolino portatile, va molto bene dell'Acer. No, io sto parlando dello smartphone, non il computer normale. Fa tutto da solo, è un computer, fa tutto, fa foto, fa tutto. Dove vuoi andare vai, Twitter, Skype, cioè Skype, come si chiama, quello che fa tutto. Anche la lavatrice ti mette a posto. Cappa. Vabbè Antone, da, io me ne vado stannando, che sono stanco. Ci sentiamo, buonanotte, sempre Gigi, salutamelo. Buonanotte a tutti gli altri che sono in ascolto. Dai, ciao Antone, tu se ti sei in ascolto, buonanotte. E ciao già, buonanotte, ci sentiamo. Arrivederci. scontone, che ce ne sono due. Non è che è poco, ci andiamo.